in primo piano. Buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi abbiamo 2 minuti prima delle informazioni sul traffico. Vi anticipo che la maggior parte dei titoli dei giornali sono economici, l'avete sentito nel GR, ci sono le novità sul bonus di 80 euro sul quale Renzi ha mostrato un po' di cautela, anzi parecchia cautela per quanto riguarda l'estensione ai pensionati e alle partite IVA. E dal Sole 24 Ore ci sono invece molte altre notizie anche di finanza, a partire naturalmente da tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulla questione della nuova Fiat, la FCA, con ieri questo via libera dei soci, questo nuovo inizio potremmo dire. E poi il Sole 24 Ore continua con la guida pratica della famiglia che ci accompagnerà per tutta l'estate. Oggi ci si occupa di casa, viaggi, valute, RC auto, ma anche di condominio e immobili, perché poi sono temi che forse in agosto possiamo un po' magari così mettere in un angolo, ma che poi naturalmente torneranno con il ritorno dalle vacanze, con il settembre che è un po' tutto sommato il vero capodanno per tutte le famiglie, per le persone che lavorano, si rinizia dopo la pausa estiva. E tra l'altro il Sole 24 Ore ha anche un approfondimento su quelle 75.000 lettere che il fisco ha mandato a tutte le persone dove è stata a tutte alle persone dalle cui dichiarazioni è risultata una discrepanza troppo grande tra le uscite e le entrate. E poi naturalmente tutti gli altri temi, a cominciare dalla guerra in Medio Oriente, che continua, anche se purtroppo, come spesso succede, sparisce magari dalle prime pagine dei giornali, ma all'interno ci sono ancora molti approfondimenti. Ora spazio al traffico, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Dicevamo, le prime pagine dei quotidiani, la maggior parte dei quotidiani, tutte dedicate ai temi economici. Quindi il Corriere della Sera titola: frenata sul bonus di 80 euro, lo avete sentito nel GR, Renzi ha detto non garantisco l'estensione a pensionati e partite IVA. E visto che però ieri c'è stata anche una prima vittoria, potremmo dire, del programma del governo Renzi, che è questo primo sì al nuovo Senato, che diventerà non elettivo, sarà composto solo da 100 senatori scelti dai consigli regionali, c'è stata bagarre, lo avete sicuramente sentito. Ricordiamo tra l'altro che è il primo di 5 passaggi, quindi per fortuna nessuno usa toni trionfalistici, perché siamo appunto all'inizio. Ecco, allora, siccome ci sono state queste due facce delle innovazioni volute da Renzi, una da una parte quella del famoso bonus di 80 euro e dall'altra quella della riforma costituzionale che prevede appunto un Senato diverso, quindi l'uscita dal bicameralismo perfetto che abbiamo sempre avuto, vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera l'editoriale di Alberto Alesina, Se parlassimo un po' spagnolo, che cerca di fare un po' il punto sui tempi delle riforme, facendo il confronto tra quello che ha fatto il governo Renzi e le scelte del governo spagnolo. Ve ne leggo una parte, vi leggo la parte che riguarda appunto la differenza tra riforme costituzionali, istituzionali ed economiche, che mi sembra interessante. Alesina scrive: Renzi ha sbagliato la sequenza delle sue mosse, doveva partire approfittando della luna di miele della vittoria elettorale alle europee per presentare un coraggioso piano economico, farlo approvare a colpi di fiducia e poi approdare a Bruxelles forte di questo e dati alla mano discutere di vincoli, con qualche concessione dall'Europa e qualche risultato sull'economia avrebbe poi potuto affrontare le riforme istituzionali da una posizione di forza. Sappiamo invece che è un po' successo il contrario, cioè c'è questo primo sì alle riforme istituzionali, ma invece quelle economiche, possiamo dire così, languono. E allora vi leggo la conclusione dell'editoriale di Alesina, precisando tra l'altro che sempre sul Corriere c'è un sondaggio che indica che un italiano su 2 per il voto anticipato, tornando al fatto appunto della luna di miele elettorale, che però si è fondata sulle elezioni europee, non sulle elezioni politiche. Da qui una richiesta sempre pare più appunto più presente nell'opinione pubblica di avere delle vere e proprie elezioni politiche, avere un Parlamento che sia veramente espressione delle scelte politiche del governo Renzi. Ma appunto la conclusione di Alesina sulla prima pagina del Corriere: insomma, l'economia procede a ritmi molto più veloci delle riforme costituzionali e quando un paese naviga sull'orlo di una crisi da debito con mercati nervosi, la velocità degli eventi si impone all'economia. Bisogna accelerare, il tempo non è scaduto, ma Renzi deve rivedere l'ordine delle sue priorità. E passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che, come vi dicevo, sceglie di titolare su questo avviso ai contribuenti, mandato a 75.000 contribuenti sui cosiddetti scostamenti del 2013, scostamenti tra quello che hanno dichiarato e quello che hanno speso. C'è spazio per il ravvedimento, perché sappiamo che tra le tante riforme che si vogliono introdurre in questo paese c'è un rapporto più sereno tra i contribuenti e il fisco, e la Camera propone un alt alla responsabilità solidale. Gli approfondimenti sono l'analisi di Raffaele Rizzardi, uno dei tanti esperti del Sole 24 Ore in tema fiscale, e poi ci sono tutti i servizi a pagina 3. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, con poi approfondimenti a pagina 4 e 5 e un'analisi anche dell'economista Giorgio Bava Navaretti, tutta la vicenda Fiat, quindi il titolo Fiat via libera dei soci a FCA. Marchionne ha detto: non venderò ai tedeschi, forse qualcuno di voi l'aveva sentito magari anche seguendo Focus Economia nelle settimane scorse, c'erano state queste voci di un interessamento del gruppo Volkswagen al gruppo Fiat, ma Marchionne ha detto: può anche darsi che sia così, ma io non venderò mai ai tedeschi. E vi segnalo tra l'altro anche l'intervento del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti, le ragioni del nuovo mondo, vi leggo le prime righe. Fiat lascia l'Italia per l'Olanda, azionisti di minoranza con meno diritti, tra virgolette. Fiat sposta la sede legale a Londra per pagare meno tasse, altro virgolettato. Fiat, poca industria e tanta finanza, per questo si quota in America, altro virgolettato. E poi scrive Alessandro Praterotti: i titoli e i giudizi con cui il web, ma non la rete, ha sintetizzato il via libera dell'assemblea straordinaria del Lingotto alla nascita di Fiat Chrysler Group, da cui l'acronimo FCA, sono certamente suggestivi. Su questi temi del resto è sempre facile scegliere le scorciatoie, scivolando su posizioni moralistiche, ma più delle conseguenze apparenti occorre esaminare i problemi del paese che sono la base della scelta, le ragioni che spingono le nostre imprese più grandi non solo a trasferire le produzioni all'estero, ma ora anche le sedi. E l'editoriale continua a pagina 5. Dalla prima pagina della Repubblica invece abbiamo una scelta un po' diversa, che è quella sulla notizia del Senato, quindi il titolo passa al Senato dei 100, il cosiddetto Senato dei 100, quindi non più elettivo ma con 100 senatori scelti, come dicevamo, dai consigli regionali, che era la proposta, l'idea di Renzi, no di Lega e 5 Stelle. Ieri, come abbiamo visto, c'è stato appunto questa grande protesta, hanno lasciato l'aula sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la guerra a Gaza, che dicevamo purtroppo è un po' sparita dalle prime pagine, ma anche poi nelle pagine interne ci sono i vari bollettini di guerra eccetera, nessuno riesce a vederne una fine a breve, forse anche sempre continua a essere difficile spiegare le ragioni dell'impossibilità di risolvere questo conflitto che dura sostanzialmente dal 1947. E allora vediamo la Repubblica, che ha numerose corrispondenze a pagina 12 e 13, un intervento di Assaf Gavron, che è un analista israeliano, e poi un po' di aggiornamenti di cronaca, se così possiamo chiamarli, come per esempio l'intervento del presidente americano Obama, che ha chiesto la liberazione del soldato israeliano rapito ieri. Comunque a Gaza è già finita la tregua, perché in realtà la tregua avrebbe dovuto durare molto più delle poche ore che poi è durata, soprattutto per ragioni umanitarie, e Hamas appunto ha catturato questo soldato israeliano. Vi segnalo dalla prima pagina, e spero di avere tempo di leggerne un pezzo più tardi, a parte la vicenda Pantani, di cui avete sentito anche nel GR, sicuramente ne sentiremo parlare anche nei giorni prossimi, perché è stata riaperta un'inchiesta sul caso Pantani, che forse non è morto di una, tra virgolette, semplice overdose di cocaina, ma è stato in realtà ucciso, così ipotizza la nuova inchiesta e i nuovi PM, che appunto hanno escluso l'ipotesi di overdose. E vi segnalavo invece appunto l'articolo di Natalia Aspesi, perché non possiamo non dirci femministe, prende spunto un po' da questa polemica dei giorni scorsi. Io non sono tra le donne che pensa che femminista sia un insulto, come invece ormai sembra essere soprattutto tra i più giovani. Il femminismo è una parola che ha un significato soprattutto per chi naturalmente ha più di 40-50 anni, come Natalia Aspesi, che cerca un po' di ripercorrere le conquiste che sono state le conquiste dei movimenti femministi soprattutto negli anni 60, e anche di spiegare quali sono ancora oggi le difficoltà da superare per le donne in tanti paesi dove sono ancora oggettivamente oppresse, ma forse anche in Occidente. Ma come dicevo, siccome poi c'è anche una bella maca di Michele Serra, che è un uomo, quindi la voce è sempre da ascoltare quando si parla di diritti delle donne, lo vediamo più tardi se ci sarà tempo. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso l'apertura è sugli 80 euro e sulle dichiarazioni di Renzi: non garantisco sugli 80 euro per tutti, quindi molto simile al titolo del Corriere della Sera. E poi la fotonotizia è dedicata alla guerra in Medio Oriente: la tregua dura 2 ore, come abbiamo visto avrebbe dovuto durare molto di più, rapito un soldato israeliano. La foto è quella bellissima di 2 ragazzi palestinesi che pescano sulla spiaggia di Gaza City, approfittando di questo breve cessate il fuoco, perché la vita in teoria dovrebbe continuare, e anche tutte le attività lavorative. Naturalmente non può essere così quando dal cielo piovono le bombe. Vi segnalo dalla Stampa il primo di 3 articoli di interventi di Abraham Yehoshua, uno dei più importanti scrittori israeliani: quella striscia mai amata dal Cairo. È proprio qualcuno si sente esperto della questione medio orientale, però come dicevo prima nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione, né presidenti americani né illustrissimi politici, magari, che poi hanno anche preso il Nobel per quello che hanno fatto per cercare di risolvere questo problema, ma il problema, come vediamo, non è risolto. E allora Yehoshua, che è uno scrittore israeliano, vive in Israele, ci riracconta, per cercare forse per primo proprio lui di capire che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere in futuro. L'articolo inizia in prima pagina, proprio sotto la fotonotizia della Stampa, e continua a pagina 3. Il Messaggero ha una scelta molto simile: difficile di estendere gli 80 euro, e poi tanti approfondimenti sulla questione all'Italia, a cura di, in questo caso, di Rosario Di Mito. Abbiamo visto che c'è questo sì condizionato di Etihad, il ministro Lupi ha detto chiuderemo entro l'8 agosto, è un po' un'odissea anche questa, vedremo se veramente entro appunto una settimana, entro l'8 agosto e venerdì prossimo, si troverà una soluzione alla questione dell'accordo tra l'Italia e Etihad. La Gazzetta dello Sport titola sulla questione di Pantani, che abbiamo visto anche sulla prima pagina della Repubblica, quindi Pantani fu ucciso, la magistratura riapre il caso. C'è l'editoriale di Andrea Monti, il direttore della Gazzetta è di Pier Bergonzi, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, un esperto di ciclismo. Il titolo è Vogliamo la verità. Il Fatto Quotidiano ha un approfondimento su un intervento che c'è stato ieri di Romano Prodi, che ha ribadito come gli sembra che Matteo Renzi ce l'abbia con lui, ma questo vabbè, per le questioni tutte interne alla sinistra. Vi segnalo invece un approfondimento su Tavecchio, altra questione di cui ci si occupa ormai da tanti giorni. Secondo le indiscrezioni del Fatto, Tavecchio sarebbe stato anche agli ordini di Moggi, e poi ci sarebbero nel suo passato anche, che vengono fuori da intercettazioni e verbali che non hanno conseguenze penali, ma comunque tracciano ci danno altri pezzi del puzzle Tavecchio, potremmo dire così, quelle trame per salvare Carraro quando era presidente della FIGC ed era stato indagato. Ci lasciamo un attimo per il meteo e la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani italiani, abbiamo visto che la maggior parte hanno delle aperture economiche, e passiamo quindi all'Avvenire, che, come spesso capita, ha un'apertura completamente diversa. La vicenda viene raccontata anche da altri giornali, ma non certo con questa enfasi. Il Fatto è quello di un caso sicuramente scioccante che è appena avvenuto in Australia, di un caso di maternità surrogata, questo termine molto freddo per indicare quando l'utero in affitto, quando cioè una donna porta in grembo il figlio di un'altra, perché l'altra donna non può avere figli. Qui è successo che questa madre in affitto ha dato alla luce un bimbo down, e scrive l'Avvenire in prima pagina: i committenti hanno accettato soltanto la gemella perfetta, pretendendo in un primo tempo addirittura che la donna abortisse. Allora, al di là della cronaca, che sicuramente è un fatto che colpisce molto, si può ragionare su questa cosa, anche se naturalmente sono questioni delicatissime su cui è molto difficile sia farsi un'opinione che magari dare dei giudizi. Però vi segnalo appunto l'editoriale di Marina Corradi sull'Avvenire, ve ne leggo una piccola parte, si intitola Il mercato è il mercato. Davvero corrisponde alla dignità umana poter acquistare il corpo di una donna per farle portare in sé il figlio di altri? È giusto sfruttare il bisogno di una donna con una manciata di dollari o di euro che possono certo fare gola in una casa in miseria? È davvero quel contratto, una volta nota la condizione di uno dei nascituri, avrebbe dovuto imporre alla madre surrogata, come pretendevano i genitori biologici, l'aborto? Ma di nuovo, soprattutto, è accettabile chiedere a una donna di farsi incubatrice per un'altra? E perché questa supplenza esercitata da donne giovani e povere, per lo più del terzo mondo, viene raccontata come dono e non come il duro sfruttamento che è? Come vedete, appunto, delle domande più che delle risposte, perché su queste questioni dare delle risposte è molto difficile. Più che altro si ripropone, adesso questo è un caso australiano, però sicuramente si ripropone il tema delle regole, siccome sappiamo che in Italia sulla bioetica ci sono stati molti tentennamenti anche sulla maternità surrogata, forse è anche l'occasione per chiedere appunto che ci siano delle leggi se non altro chiare. Veniamo alla prima pagina del giornale, il futuro del centrodestra, titola il giornale, Berlusconi ha un jolly, così rivela la senatrice Rossi, si andrà presto a votare, ci saranno delle sorprese. Vi ricordo che all'inizio della nostra rassegna stampa abbiamo visto come un sondaggio del Corriere indichi che metà degli italiani vorrebbero proprio questo, cioè il voto anticipato. L'editoriale del direttore del giornale Alessandro Sallusti, due contro tutti, perché i due contro tutti sono quelli che abbiamo visto, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che ieri, di fronte a questo primo sì a un Senato fatto da 100 senatori non eletti, ha lasciato l'aula per protesta. Libero, Renzi fa il canguro e i soldi saltano via. Sapete, il canguro, questa immaginifica, quanto secondo me così chiamerei inutile modo, perché non vedo perché si debba così trovare un neologismo per una pratica parlamentare. Comunque sapete che è stata battezzata canguro, con naturalmente aprendo le porte a innumerevoli battute, questa pratica di saltare una serie di emendamenti se uno di questi tutto sommato comprendeva anche gli altri, quindi appunto un salto del canguro. Allora subito Libero di titola Renzi fa il canguro, a che cosa ci si riferisce? È da BlackRock, che è un fondo, a Soros, che è il grande investitore, dalle banche ai grandi fondi, chi gestisce i capitali stranieri inizia a mostrare irritazione per l'inconcludenza di Matteo, rischio di nuove tensioni sul debito e la Fiat lascia l'Italia. E vi segnalo tra l'altro a questo proposito che anche sul Sole 24 Ore ci sono molti approfondimenti su quello che è successo poi ieri in borsa, lo spread che è tornato un po' a rialzarsi e sicuramente le tensioni sui mercati finanziari, perché tutta questa incertezza e anche i nuovi dati sulla crescita inferiore alle previsioni preoccupano gli investitori finanziari. Quindi sostanzialmente, secondo Libero, gli investitori esteri sono delusi dal governo e da queste scelte più da questa concentrazione più magari, come dicevamo, come leggevamo anche sul Corriere della Sera, più sulle riforme istituzionali che non su quelle economiche. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali, che sono anche oggi, nonostante sia un sabato, il primo sabato di agosto, molto ricche. Dal Corriere della Sera vi segnalo un aggiornamento sulla questione Galan. Vi ricorderete il grande scandalo del Mose, su cui naturalmente dobbiamo ancora anche lì abbiamo tante domande, poche risposte. La questione Galan, all'arresto del quale il Parlamento ha dato il via libera, però per ora è agli arresti domiciliari, l'ex governatore del Veneto anche per problemi di salute. Il Corriere della Sera, con un articolo di Andrea Pasqualetto inviato a Venezia, titola Contro Galan le accuse di tre super testimoni, comprò la villa, la sua famosa villa, con €1.000.000 in nero. Una delle tante accuse a Galan è quella di aver preso appunto soldi in nero per le sue ville, per le sue proprietà, per se stesso, per la sua famiglia, e lui nega tutto, ma appunto vediamo che intanto l'inchiesta continua grazie soprattutto alle testimonianze di ex collaboratori o di imprenditori che questi fondi neri li hanno elargiti. Dicevamo, dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo anche la questione argentina. Ieri ne parlavamo tutti, oggi forse non c'è già più spazio, però in realtà il rischio di default esiste ancora. Ci spiega Marco Valsagna da New York. Argentina, scattano i pagamenti sui CDS, dopo il default selettivo saranno infatti rimborsate queste polizze contro l'insolvenza sovrana per oltre 20 miliardi di euro. E c'è un interessante dizionario del default curato da Gianluca Di Don Francesco, che ci spiega gli avvoltoi, il giudice e i bond, appunto ci aiuta un po' a capire le parole che verranno usate nel seguire questa crisi del default argentino, che è tutt'altro che risolta. vi dicevo all'inizio anche che per tutto agosto il Sole 24 Ore andrà avanti con questa guida pratica per la famiglia, con tutte le risposte alle domande dei lettori trattati con una sorta di esperto risponde estivo, perché come dicevamo si va in vacanza, forse chi va in vacanza, vanno in vacanza tante persone, l'Italia rallenta, l'Italia, l'Europa, un po' tutti in estate, però poi ci sono tante questioni aperte che andranno affrontate in settembre. Quindi oggi per esempio le risposte a domande su casa, sulle detrazioni, i viaggi con tutti i diritti dei contribuenti, le valute, perché si possono, è naturalmente un tema per chi viaggia all'estero ma anche per chi investe all'estero, e l'RC auto. Dalla prima pagina di Finanze e Mercati un'intervista di Alessandro Graziani all'amministratore legato di Intesa San Paolo, che ieri ha presentato i suoi conti. Il titolo è: Intesa vincerà la sfida dei test BCE. Sapete che la Banca Centrale Europea sottopone le banche, anche quelle italiane naturalmente, a dei test per vedere quanto solidi sono i loro bilanci. Naturalmente Messina dice il PIL italiano è in frenata, i mercati si aspettano che il governo faccia le riforme dell'economia, e torniamo su questo tema appunto di invertire un po' le priorità, dare una priorità forte, chiara e percepita dai mercati alle riforme economiche invece che a quelle istituzionali. Oggi è sabato, quindi in edicola con il Sole 24 Ore c'è Plus, il settimanale dedicato al risparmio. La copertina che ha un orso con sopra un toro, con sopra una tartaruga, con sopra una volpe, con sopra un coniglio, che sono un po' i simboli dei vari profili degli investitori, oltre che, come sappiamo, l'orso simbolo dei mercati e il toro il simbolo dei mercati che crescono. Quindi scelte di investimento, il titolo della storia di copertina: diversificare ma non troppo, l'elevata frammentazione in portafoglio non è garanzia di protezione dai rischi, ecco gli errori e le strategie per un approccio corretto. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un articolo su un'altra questione, un altro dossier potremmo dire aperto sul tavolo di Renzi, che è quello della RAI. Si è ipotizzato nei giorni scorsi una razionalizzazione dei TG della RAI, e qui c'è un confronto, c'è uno schema. Il titolo è: una sola testata per tutte le news, tagli di 100 milioni nel piano di Gubitosi, che è il direttore generale della RAI. Ma c'è anche un interessante confronto, perché abbiamo, per esempio, si scopre perché abbiamo il record delle edizioni di telegiornali. In Italia abbiamo Rai 1, Rai 2, Rai 3 per un totale di 22 edizioni, in Inghilterra con la cosiddetta mitica BBC, che dovrebbe sempre essere il modello quando si parla di riforma della televisione, cioè BBC 1, BBC 2, BBC 2 per un totale di 6 edizioni. Vi dicevo dalle pagine interne della Repubblica la questione del femminismo, trovate la maca di Michele Serra, pagina 24, che è in realtà dedicata a questa storia bellissima delle donne turche, a cui il vice premier ha detto: dovete ridere di meno, perché insomma dovete fare cose più serie, tipo stare a casa, occuparvi dei figli, cucinare, curarvi dei vostri mariti e non ridacchiare qua e là. E Michele Serra scrive appunto, dedica la sua maca a questa questione. Vi leggo la prima parte: le donne turche ridono a migliaia, moltiplicando la risata sul web per fare dispetto al ministro Bigotto, che aveva invitato le brave musulmane a non ridere forte perché è contro la morale pubblica. Le donne polacche addentano mele e pare di sentire l'allegro crocchio dei denti che incidono la polpa per ripicca contro Putin e i suoi embargo alimentari. I veti russi da quelle parti danno ai nervi da qualche secolo. Ovunque, laddove si vieta o si limita o si sopisce, scatta l'impulso della libertà. Viene da chiedersi se da noi o in altre società che hanno già consumato il percorso della libertà ben oltre il traguardo, dove di vietato c'è ormai pochissimo e ci si sente oppressi semmai dal casino informe, non sarebbe il caso di organizzare campagne web di senso opposto, nelle quali per esempio avanguardie di popolo si immortalino da soli o in gruppo, silenziose e composte, per protestare contro le gazzarre di Parlamento e di studio TV. Frasi gentili e persino precetti di buona educazione, non si urla al ristorante, divengono virali e molto di tendenza, in segno di resistenza contro il burino arrembante e il trucido invadente. E dal web trapeli, per prendere le distanze da un portamento sociale di totale svacco e basso cabotaggio, un imprevisto richiamo alle regole e alla compostezza. E poi vabbè, vi dicevo come il lungo articolo di Natalia Aspesi, che era cominciato in prima pagina, perché non possiamo dirci femministe, io l'ho trovato molto bello. anche perché un po' appunto è il racconto di una donna che ha vissuto tante battaglie che noi più giovani non abbiamo vissuto, magari abbiamo sentito raccontare, e che adesso si stupisce un po' di questo post-femminismo o di queste accuse che appunto in cui la parola femminista o vetero-femminista diventa quasi un insulto, mentre potrebbe ancora avere un significato positivo. Vi segnalavo, ve lo risegnalo a pagina 3 l'articolo di Abraham Yehoshua per capire appunto la questione un po' israeliana. Il titolo è "Quella striscia che l'Egitto trattava come corpo estraneo". Andiamo indietro al 1947, perché purtroppo di questo si tratta, di una questione irrisolta da tanti tanti tanti anni. E sulla stampa di oggi c'è anche tutto libri, l'approfondimento dedicato ai libri. Dal Messaggero vi segnalo invece, dal supplemento macro, una panoramica di tutti quei popoli, a partire dalla Scozia che voterà per l'indipendenza, i popoli in cerca di Stato, così li chiama il Messaggero, dalla Scozia all'isola di Bougainville, dalla Catalogna al Kurdistan iracheno, molte le realtà che chiedono l'indipendenza, puntando anche sulla propria ricchezza economica, pacificamente con referendum condivisi, come accadrà il 18 settembre nel nord del Regno Unito, o in modo controverso a Barcellona, che sfiderà nelle urne il governo di Madrid il 9 novembre. Ci sarebbero tantissimi altri approfondimenti, ma ora è tempo di dare spazio alla viabilità, e poi subito dopo ci ritroviamo per la rassegna stampa europea.